Buonasera, abbiamo avuto qualche problema tecnico come al solito. Qualche problemino, ovvero un macello totale, cioè. Quindi sono le 18 e 37 e stiamo iniziando la puntata delle ribelli e oggi il tema è il poliamore. Finiamo. Cosa? Il poliamore, Giulia. Cosa sarebbe il poliamore? Per questo serve questa puntata, per fare un po' di chiarezza, speriamo. Speriamo, vediamo. Poi, ovviamente non saremo noi a farla la chiarezza, ovviamente. Ma qualcuno che ne sa. Quindi direi, finiamo di ascoltare Lady Gaga. Born This Way. E poi ci risentiamo. A tra pochissimo. I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Hey, hey, I'm on my love, I love this record and me, I'm on it, roll it by guys. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have to tell them. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, voi mi sentite bene. Grande gioia che rompe nelle vostre case così senza saperlo. Volevo dirvi che qua si balla insieme alla nostra Lady J, è qua wow! con noi. Beh, comunque me l'hai fatta tu, Giulia, cioè me l'hai fatto tu lo scherzetto, eh. Io credevo fossimo in muto e invece no. No, siamo online. Wow. Siamo ancora online, certo. Madò, Giulia, perché non ci sono io alla regia? Ma perché, qual è il problema? Stavamo aspettando, mancavano 3 secondi alla fine della... Va bene, va bene. Cioè, io non lo so. Litigate, ragazze birichine? Sì, beh, io e Giulia lo sappiamo, siamo la coppia che scoppia. Di brutto, scoppia soprattutto. Da un momento all'altro. Boom! Aiuto. Preparatevi anche perché adesso finalmente possiamo iniziare anche con la nostra programmazione. Oggi devo ricordarvi che siamo le ribelli, nel caso fosse sfuggito. Non lo diciamo mai. Non ma lo l'ho detto all'inizio. Ah, l'hai detto? Certo. Ah, non ti ho sentito io. Ah, va bene. Scusate. Allora, come abbiamo già detto, oggi la puntata sarà incentrata sul poliamore. Visto che nessuna di noi sa che cos'è, infatti la puntata serve proprio a questo, l'abbiamo pensata proprio per dare un'idea non solo a voi ascoltatori e ascoltatrici, ma anche a noi stesse che insieme abbiamo organizzato e preparato questa puntata. E niente, qui con noi, come ha già detto Giulia, c'è la nostra amatissima Lady J. Ciao a tutti. Ovviamente Lady Sorpresa. Gaga. Lady Gaga è stata tutta farina del suo sacco, la ringraziamo. Oh, ma gioia, ti racconto, anzi vi racconto, perché siete tutti in ascolto, tutte in ascolto, una marea di gente. E l'altro giorno mi chiama mia mamma, e, ma cosa fai? C'è qua la mia amica Jessica, ma chi le DJ? Cioè, capito? Qui si sta costruendo un mito attorno alle DJ. La amano tutte, tutti, tutto. Ok, allora intanto possiamo anche ricordare i nostri canali. Vado io, immagino. Sì, certo. Non avevamo dubbi. Allora, carissime, carissimi, voi potete seguirci tramite la pagina Facebook Radio ZAM, dove compaiono tutti i programmi, vi mandiamo anche i podcast, ma soprattutto potete anche scriverci i messaggini. Inoltre i messaggi li potete mandare anche alla radio, alla chat di Telegram, chiocciola radio ZAM trattino basso chat, e così ci potete scrivere tutto ciò che pensate, visto che oggi il tema è particolarmente scottante. Immagino che avrete un sacco di dubbi, domande, perplessità, riflessioni, cose belle magari da condividere, e scriveteci. Oppure ci seguite tramite il canale Telegram, dove vi mandiamo delle informazioni, quello del Radio ZAM. E anche su Instagram, Radio ZAM Misud, dove ovviamente tutto viaggia più a livello di immagini, però anche lì potete seguire tutto ciò che riguarda la nostra programmazione fantastica. Ok, io ho ricordato i nostri canali. Direi che possiamo magari mandare un'altra canzone. Ma stanno arrivando allora. E poi ci collegheremo col primo intervento della puntata. La prossima canzone è Poliamore. Siamo proprio in tema. Stavo con te, ma parlavo sempre di lei con te. Lei stava con lui, ma parlava sempre di me con lui. E in questo giro d'anime passava lenta l'estate. Due coppie in vacanza, la spiaggia e il campeggio, quattro cuori e una capanna. Hai mai sentito parlare di una forma d'amore non convenzionale? Di amare più persone nello stesso spazio temporale. Hai mai sentito parlare di una forma d'amore primordiale? Di amare più persone come fossi un animale asessuale. Un animale asessuale. È inutile che sfiori lui e ti connetti con me. Non c'è inganno né violazione, solo poli condivisione. Queste vibrazioni sottovoce fanno confusione. Due coppie all'altare, il prete infelice suggerisce la confessione. Hai mai sentito parlare di una forma d'amore non convenzionale? Di amare più persone nello stesso spazio temporale? Hai mai sentito parlare di una forma d'amore primordiale? Di amare più persone come fossi un animale asessuale. Un animale asessuale. E già lo sai dove si va, dove si va? Nella malizia. Ah, dopo di lei, dopo di lei, la nostra finzione. Nell'innocente monogamia, parlare sottovoce con la paura del poliamore. Hai mai sentito parlare di una forma d'amore non convenzionale? Di amare più persone nello stesso spazio temporale? Hai mai sentito parlare di una forma d'amore primordiale? Di amare più persone come fossi un animale. Hai mai sentito parlare di una forma d'amore non convenzionale? Di amare più persone nello stesso spazio temporale? Hai mai sentito parlare di una forma d'amore primordiale, di amare più persone come fossi un animale pansessuale, un animale pansessuale, un animale pansessuale, un animale pansessuale. Vabbè, Giulia vuole fare gli scherzetti stasera. No, io non ce l'avevo attivo. E mi riescono anche molto bene, ma sentiamo una voce di sottofondo. Esatto. Chi è? Chi sarà mai questa voce? Ci sentite? Buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici dobbiamo dire una cosa, vero Giulia? Sì, allora, per il primo intervento di oggi, per quanto riguarda la tematica del poliamore, abbiamo deciso di sentire parlare un pochettino con Giulia, che è una psicologa che si occupa di comunità che praticano il poliamore, e affrontare un pochettino più nel profondo questa tematica, soprattutto per chi magari anche questa scelta, per chi la vive in modo più diretto, ecco. Innanzitutto grazie di avermi invitata. Grazie a te. Sì, dovete anche sapere che siamo in collegamento Zoom, quindi speriamo che vada tutto Giulia bene. Insieme a Giulia c'è Tecla, la nostra cara Tecla. Ma quindi, ciao ragazze, sono qui in conduzione anche io per la prima volta, che bello, sono emozionata. Anche noi, Tecla, di solito ti ascoltiamo attraverso le poesie che scegli. Esatto. E oggi invece ti ascoltiamo in quest'altro modo. E ti Ma vediamo in anche, realtà... No? Ho anche chiesto a Giulia, ho detto a Giulia che non ho trovato nulla di poetico e di artistico per quanto riguarda questa tematica. Lei mi ha detto, guarda, non c'è nulla, infatti, quindi la cosa mi ha anche sollevata, ho detto magari sono io rimbambita, invece è proprio così. Bene, allora, abbiamo qui la nostra Giulia, che io ho conosciuto a un incontro sul poliamore un anno fa. Non ci siamo mai forse presentate, è assurdo che ci no, stiamo conoscendo in questo momento. E, come hai detto tu, Giulia Mercu di Radio Ribelli, è una psicologa e si occupa delle comunità poliamorose a Milano. E io direi, Giulia, iniziamo con una semplice domanda. Che cos'è il poliamore? Allora, faccio la versione breve. Iniziamo dalla versione breve e poi la estendiamo. Quando parliamo di poliamore stiamo parlando innanzitutto di una non monogamia etica, quindi si tratta di una modalità relazionale, uno stile relazionale che non prevede la monogamia come regola di relazione amorosa, ma prevede la possibilità di avere più partner contemporaneamente, partner romantici, sessuali, purché ci sia la consapevolezza da parte di tutte le parti coinvolte sostanzialmente. Quindi si creano delle relazioni in una sorta di rete allargata, per cui le persone possono sempre previo accordo con i propri partner allargare la rete avendo altri e più partner romantici. Di fatto la caratteristica peculiare del poliamore è proprio il fatto che tutte le persone coinvolte siano consapevoli e siano d'accordo e abbiano condiviso le regole e gli accordi che hanno stabilito tra loro per come funzionerà la relazione. Quando c'è appunto un gruppo di persone in relazione poliamorosa si parla di polecola, così anche il termine tecnico, e la polecola si può strutturare in tantissime forme diverse, perché appunto non ci sono delle regole precostituite di che cosa significa avere una relazione poliamorosa, ma sono proprio le persone che entrano in relazione che decidono insieme come costruire la struttura delle loro relazioni. C'è nel gruppo delle non monogamie etiche, in realtà ci sono altre forme di relazione, quindi non necessariamente il poliamore, ad esempio possiamo includere le coppie aperte, che quindi decidono di poter allargare la loro relazione ma solo in ambito sessuale, oppure altro versante l'anarchia relazionale, che è una forma di relazione che fa scendere, fa cadere sostanzialmente la differenziazione tra i tipi di relazione, quindi non c'è più una differenza tra la relazione romantico-sessuale affettiva, ma anche l'amicizia o tutte le forme di relazione significativa tra persone vengono incluse all'interno della rete, ed è caratterizzata da molta più fluidità anche proprio nella definizione stessa delle relazioni. Quindi questa è un pochettino la panoramica generale. Benissimo. E tu mi parlavi anche di cerchi di condivisione. Sì, esatto. E cosa sono questi cerchi di condivisione? Allora, parto da una piccola premessa. In Italia ci sono diverse comunità poliamorose che si sono sviluppate da qualche anno a questa parte, sono nate online. Però col tempo abbiamo iniziato ad organizzare anche degli incontri in presenza. Io parlo principalmente per la comunità milanese, di cui faccio anche parte come organizzatrice, che conosco bene, che ormai conta un buon numero di partecipanti. Purtroppo questa situazione di quarantena ha un po' fermato gli incontri, però prima di questo momento c'erano sia degli incontri più social, diciamo, nel senso che facevamo degli aperitivi tutti insieme, ma c'era anche questa forma che sono proprio i cerchi di condivisione, che era un momento di incontro e di condivisione di tematiche relative al poliamore. Quindi veniva decisa di volta in volta una tematica legata al poliamore e insieme in un gruppo abbastanza ristretto di persone, perché tendevamo a limitare il gruppo a 15-20 partecipanti al massimo, ci si confrontava su queste tematiche con delle figure che facevano da moderatori. Io ho fatto, appunto, ho organizzato diversi cerchi. In realtà proprio oggi abbiamo messo in pista il primo cerchio milanese online, nel senso che siccome la comunità è ferma da un pochettino abbiamo deciso di fare questo esperimento, che sarà la settimana prossima, se non mi sono persa qualche passaggio finale, e vedremo come va, insomma. Quindi dimmi, quindi vai pure avanti. No, dicevo, sono proprio dei momenti di condivisione in cui le persone hanno la possibilità di entrare un po' più nella sfera intima, poter parlare delle loro difficoltà, delle loro riflessioni su tematiche sempre diverse. Ci sono dei sempreverdi, nel senso, ad esempio, i cerchi sulla gelosia vanno sempre un sacco, perché comunque la gelosia è un tema che si affronta spesso parlando di poliamore, però abbiamo affrontato diversi percorsi anche più particolari. Ad esempio abbiamo fatto alcuni cerchi sul genere e sulle relazioni tra il genere e il poliamore, alcuni cerchi legati alla comunicazione e come gestire la comunicazione in ambito poliamoroso, quindi abbiamo anche scelto dei temi un po' più, come dire, di nicchia, tra virgolette, che però permettevano di aprire degli aspetti che di solito non si affrontano magari ad esempio all'aperitivo, in cui si imposta un po' più tutto come quattro chiacchiere, ecco. Beh, devo dire che hai tirato fuori delle tematiche importantissime, hai tirato fuori la gelosia e che di solito interessa molto questo argomento. Ecco, come gestiamo la gelosia in una coppia poliamorosa? Qual è il... Allora, scusami. Innanzitutto c'è da fare una premessa: la gelosia c'è, nel senso che spesso un po' degli stereotipi che girano sul poliamore è che le persone veramente poliamorose non sono gelose, e in realtà non è proprio così. Tutti noi siamo cresciuti in una cultura comunque in cui la monogamia è la modalità relazionale di elezione, quindi tutte ci scontriamo col fatto che abbiamo interiorizzato, cioè abbiamo imparato delle regole relazionali che il poliamore mette in discussione, per cui la gelosia compare spessissimo. Si può gestire in tantissimi modi diversi. Innanzitutto quello che spesso consigliamo in ambito poli è quello di scomporre la gelosia nelle emozioni che la compongono, perché comunque la gelosia è un contenitore piuttosto ampio di tante cose diverse. Ad esempio potrebbe contenere paura di essere escluse, piuttosto che insicurezze legate alla propria autostima, ai propri livelli di autostima, oppure invidia rispetto al fatto che magari il nostro partner o la nostra partner sta facendo delle cose molto belle con qualcun altro e non ci siamo noi lì, quindi ci possono essere tante cose dentro. Quindi scomporre questa sensazione molto viscerale che noi chiamiamo gelosia, cercando di andare a capire quali sono le cause e che tipo di emozione più puntuale stiamo provando, ci permette di capire come e affrontare la questione. A quel punto la regola è sempre, cioè la regola, il consiglio è sempre comunica, cioè la cosa importantissima è parlarne e trovare sempre di più e sempre meglio dei modi di comunicare in maniera onesta e aperta con le proprie relazioni e meta relazioni, ovvero i partner del proprio partner, le partner del proprio partner, insomma. Quindi in una relazione di tipo poliamorosa, la comunicazione, diciamo, che è fondamentale, oddio, probabilmente anche in tutte le relazioni. Anche sì, assolutamente. Esatto. Sì, la cosa incredibile è che il poliamore ci porta di fronte a quanto sia fondamentale la comunicazione, perché, come dicevo prima, siccome non ci sono delle regole di come funzioni una relazione poliamorosa, bisogna per forza parlarsi per poterle stabilire. E questa cosa, se ci pensiamo, nelle relazioni classiche monogame non esiste, nel senso che tutte le persone si avvicinano alle relazioni sentimentali con l'idea che relazione uguale monogamia, e che ci siano delle cose che nella monogamia sono giuste, delle cose che sono sbagliate, ma non è che ci si interroga se sia davvero così o se per noi può essere in qualche modo diverso. L'esempio che faccio sempre è la rappresentazione di tradimento. Tutti sappiamo che nella monogamia non si deve tradire, però poi se si chiede alle persone, vabbè, ma per te che cos'è tradimento? Salta fuori che per qualcuno anche solo immaginare di provare attrazione per qualcun altro tradimento, e qualcun altro dice no, vabbè, finché non si passa all'azione sessuale si può fare tutto. Qualcun altro ancora dice vabbè, però al bacio passi, l'importante è che non ci si vada a letto. Cioè, alla fine non ci si parla di questa cosa e le visioni sono tantissime. Siccome il poliamore la regola implicita, cioè la regola non detta, non ce l'ha, e quindi l'accordo va trovato esplicitamente, spinge a comunicare. Tant'è che una cosa molto bella della comunità milanese che mi è capitata varie volte è che delle persone sono arrivate incuriosite dalla tematica. Naturalmente la comunità poli è aperta a tutte e a tutti, anche solo per curiosità, senza nessun tipo di problema. Per cui tante persone, magari anche monogame, sono venute ai nostri eventi, ci hanno fatto un sacco di domande, e ho avuto diversi feedback da persone che poi sono rimaste monogame sul fatto che però sentire i nostri discorsi, confrontarsi con noi, ha permesso loro di capire che anche nella monogamia in realtà poter parlare così apertamente e con così tanta chiarezza dei propri bisogni e dei propri sentimenti è una cosa che arricchisce tantissimo. Quindi è stato sicuramente un bellissimo feedback da raccogliere, ecco. Benissimo, allora io direi che abbiamo ancora un po' di tempo, giusto ragazze? Sì, ci sono arrivate anche delle domande via Telegram, se possiamo, allora, Giulia, fartele, riportartele. Sì, certo. Allora, certo. Ci chiedevano più o meno quale fosse l'età dei partecipanti a questi cerchi di cui hai parlato, quindi immagino poi anche delle comunità, più o meno l'età quale potrebbe essere. Allora, sulla comunità poli io ricordo un aperitivo in cui il partecipante più giovane, anzi la partecipante più giovane, aveva 4 anni e la persona più adulta ne aveva più di 70. Questo per dire quanto sia inclusiva in termini di età, nel senso che abbiamo anche persone che hanno figli, che hanno portato figli, eccetera. Per quanto riguarda i cerchi di condivisione, di solito ci sono persone che sostanzialmente in realtà vanno dai 17-18 anni fino anche a persone di 60-65 anni. Abbiamo tantissime persone magari di 50-60 anni che hanno avuto anche storie di matrimonio, figli alle spalle, che poi a un certo punto hanno capito che il loro stile relazionale poteva essere poliamore, quindi veramente molto molto inclusivo in termini di età. Questo è interessante anche, poi immagino che vari anche la capacità di riuscire magari a mettersi in gioco in base all'età, cioè magari sei un po' più capaci di capirsi con l'età, ovviamente, rispetto a magari qualcuno di più giovane che ancora deve anche scoprirsi come individuo. Non lo so. Concordo con te. Sì, sì, devo dire, concordo con te. La cosa incredibile però che ogni età ha i suoi punti forti sul tema poliamore, perché ad esempio un'altra cosa che ho visto è che più le persone sono avanti con l'età, cioè più sono grandi, più hanno raccolto esperienze di vita, soprattutto monogame alle spalle, più fanno magari un pochettino fatica a mettere in discussione tutte le regole, tutte le strutture che avevano per poterne costruire di nuove. Mentre conosco tante persone giovanissime che si avvicinano al poliamore che hanno già sostanzialmente destrutturato, messo in discussione tutto e vivono tutto il discorso poliamore con una semplicità e una naturalezza che persone più adulte fanno un po' più fatica a raggiungere, ecco. Quindi da un lato concordo con te nel dire che effettivamente se una persona soprattutto ha lavorato su se stessa durante i suoi anni di vita raggiunge dei livelli di comunicazione molto alti. Ho presente ho in mente delle coppie addirittura che dentro al matrimonio si sono approcciate insieme alla comunità poliamorosa e hanno deciso di aprire la loro relazione. Chiaramente queste persone già molto allenate a parlare, a discutere, perché immaginiamoci appunto una coppia sposata monogama, magari con dei figli, che decide di arrivare al poliamore, ovviamente hanno già una buonissima capacità di comunicazione, perché sennò cioè, non ci sarebbero mai arrivate sostanzialmente. Quindi loro sicuramente hanno questo vantaggio, sì. Poi, ciao Giulia. Ciao! Io avevo una domanda che mi è venuta in mente e volevo sapere, secondo anche la tua esperienza proprio in questi momenti di condivisione, se è successo, in che modo avete affrontato o dici che si affronterebbe una situazione di violenza di genere all'interno appunto di relazioni poliamorose? Allora, non ho... Sì, domandone, infatti, verissimo. Allora, ti dirò, ci sono state delle situazioni di lieve violenza, poi la violenza è tutta gravissima, però non abbiamo avuto casi di violenza fisica, per esempio, però ci sono state delle situazioni in cui si sono dovute affrontare delle questioni di abuso psicologico piuttosto che delle situazioni un po' borderline. C'è da dire che qui parlo principalmente della comunità milanese, che è quella che frequento e che conosco. Abbiamo cercato di creare un ambiente molto inclusivo da un lato, ma anche molto safe per le persone, quindi c'è una grande attenzione da parte di tutti gli organizzatori e le organizzatrici sul tenere monitorate determinate dinamiche. Siamo comunque un gruppo che, oltre appunto a racchiudere persone poli, è anche antisessista, antirazzista, quindi attenti e promotori e promotrici di questo tipo di atteggiamento. Detto ciò, ci sono comunque organizzatori e organizzatrici che sono punto di riferimento, per cui la comunità sa che si può rivolgere a noi se ci sono dei problemi, e in quel caso cerchiamo di capire quali possano essere le modalità migliori di intervento. La cosa più comune che mi sono trovata ad affrontare anche personalmente è il fatto che, proprio perché i nostri eventi sono pubblici e sono aperti a tutte le persone interessate, possa capitare che a volte arrivino delle persone, in particolare uomini, in particolare etero, che si approcciano alla comunità un po' come un territorio di caccia, e questa cosa noi cerchiamo attivamente di evitarla per far sentire tutte le persone che partecipano sicure. Quindi in questo caso la politica è quella in primis di informare a priori, nel senso che i nostri gruppi sui social sono accessibili, ma bisogna rispondere ad alcune domande che ci servono da scrematura iniziale. Poi, nel momento in cui le persone arrivano agli aperitivi, agli eventi, comunque tendiamo spesso e volentieri a ricordare quali sono le regole e il livello di rispetto che ci aspettiamo che le persone tengano. Se poi succede qualche atteggiamento appunto non piacevole per la persona colpita da tale atteggiamento, prima cerchiamo di parlare con la persona che ha messo in atto l'atteggiamento per capire se ci può essere terreno per migliorarsi e per evitare che la cosa si ripeta. Ci è però anche capitato di chiedere gentilmente a determinati partecipanti di non partecipare più perché non riuscivano a comportarsi in una maniera idonea a garantire la sicurezza delle persone, insomma. Quindi comunque siamo molto presenti da questo punto di vista. Quindi si può anche dire che è tutta la comunità che affronta la questione e qualora ci fosse la possibilità, aiuti la persona che ha agito violenza, e qualora non ci fosse la possibilità, prende la decisione di allontanarla. Sì, confermo. Tra l'altro, io sono molto attenta personalmente, ho portato avanti anche nel gruppo organizzatori e organizzatrici più volte la questione del fatto che purtroppo la nostra cultura fuori dagli spazi sicuri è ancora molto sessista, e quindi certi atteggiamenti la persona li mette in atto veramente senza rendersene conto. Certo. Questa cosa si registra soprattutto con, appunto facevo prima l'esempio, non solamente, ma soprattutto con uomini etero magari di una certa età, che proprio hanno delle modalità di interazione per cui non si rendono conto, mentre noi siamo tantissimo attenti e attenti al concetto di consenso anche proprio negli spazi fisici, per cui ad esempio una regola su cui siamo molto ferrei è: non si può in alcun modo toccare le altre persone, fosse anche ad esempio una mano sulla spalla mentre si parla, senza aver chiesto un consenso esplicito, perché non possiamo mai sapere se l'altra persona potrebbe sentirsi a disagio, quindi agiamo preventivamente chiedendo a tutte le persone di fare molta attenzione a chiedere consenso esplicito per ogni approccio. Caspita, questo è molto bello. Sì, è una forma di educazione, credo, che di cui avrebbero bisogno tutti e tutte in generale, non soltanto per far parte di una comunità del genere, ma credo che sia proprio un'attenzione, una cura veramente speciale. Sì. Ma tra l'altro non so, Giulia, adesso Giulia Mercu che c'è qua con me in radio, dici che possiamo fare un'altra domanda e poi mettiamo una canzone per rilassarci un po' e riprendere dopo? Sì, io avevo una domanda, che è una domanda che ho un po' nella testa da parecchio tempo e forse non è una domanda a cui c'è una vera risposta, è possibile, nel senso, io non riesco a capire se si sceglie di praticare il poliamore a priori, cioè un giorno dici vabbè, io ho vissuto così cos'è, vabbè, allora provo il poliamore perché, e quindi ti imposti quella cosa lì, o se è un, cioè, questo a me sfugge un pochettino, diciamo che mi sono confrontata con questa cosa e ci ho un po' scontrato. È bellissima la tua domanda. Allora, guarda, ti rispondo con un'altra domanda che mi è stata fatta spessissimo: ma poliamorosi si nasce o si diventa? Allora, il discorso è che tutte le persone sono diverse, ci sono persone che scoprono il poliamore magari dopo aver impostato una vita seguendo appunto la cultura monogama e che quindi magari se ne accorgono nella maniera più, come dire, di impatto possibile, ovvero sono in una relazione e si innamorano di qualcun altro. Quindi si trovano di punto in bianco a dover decidere come gestire questa situazione. Ci sono in realtà altre persone che ci arrivano, come dicevi tu, cioè che fanno un ragionamento su quelle che ritengono essere le loro ambizioni per la loro vita personale, che decidono di approcciarsi al poliamore un po' in modo più teorico, tra virgolette. E quindi credo che la risposta sia sì e no, nel senso che ci può essere sia una cosa che l'altra. Tra l'altro un tema a cui io sono molto affezionata è anche il fatto di ribadire la fluidità degli stili relazionali, oltre che di tutto il resto, nel senso che ormai ci siamo forse qualcuno, almeno un po', abituando a parlare della fluidità di genere, della fluidità di orientamento. Secondo me è importante parlare anche della fluidità degli stili relazionali. Il poliamore è uno stile relazionale come la monogamia, le persone potrebbero in alcuni momenti di vita sentirsi più spinte ad uno stile relazionale quale può essere il poliamore o ad un'altra non monogamia etica, e invece in altri momenti per varie ragioni decidere che la sicurezza della coppia chiusa può essere la cosa migliore per loro. Cioè credo che la rigidità e l'idea che o sei così o sei cosà sia sempre un po' riduttiva, ecco. Grazie, questo è già di grande aiuto per me, in effetti. Allora direi che se con il consenso di tutte ascoltiamo, direi magari un paio di canzoni, così diamo il tempo anche a tutti e tutte di rielaborare un po' tutto quello che ci hai raccontato e quindi di dare anche la possibilità di scriverci qualora ci fossero delle domande. Si può fare. Benissimo, consenso dato. Rimaniamo connesse? Mettetevi in muto. Mi metto anch'io in muto. Perfetto. Ok. Les sommes et tous les mêmes. Macho méchu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites. Vous avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. « Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Abbiamo appena ascoltato Tous les Mêmes di Stromae e adesso ascoltiamo Pensiero Stupendo. E tu e noi e lei fra noi. Vorrei, non so, che lei o no. Le mani, le sue, pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei. Sa che vorrei le mani, le sue, o prima o poi. Poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. lei, e lei adesso sa che vorrei le mani, le sue, e poi un'altra volta noi due. Vorrei per amore, per ridere, dipende da me. Ok, adesso siamo in diretta, Tecla, per ci davvero. Siamo, Tecla. Vabbè, brava. Ci sta sempre, ci stanno sempre questi inconvenienti bellissimi e meravigliosi. Ok, allora, vai, Tecla. Dicono che ci sono arrivate delle domande dalle studentesse, quindi Giulia sarai costretta a rispondere. No, certo. Va bene. Allora, parto subito con la prima. È possibile amare allo stesso modo più persone, al di là dell'amore che si prova tipo per la famiglia? Se sì, la monogamia allora non è l'unica possibilità? Questa è la domanda. Allora, la monogamia non è l'unica possibilità e questo lo confermo. Amare due persone allo stesso modo è difficilissimo rispondere a questa domanda, perché di fatto l'amore per ciascuna persona è comunque qualcosa di speciale e unico, perché dipende dalla relazione che si crea con quella persona. Possiamo amare nella stessa intensità, con lo stesso grado di impegno, questo sì, però non mi sentirei di dire che esista un identico modo di amare. Secondo me l'amore è un po' un'impronta digitale con le persone. Tra l'altro nel poliamore, ad esempio, esistono anche le triadi, quindi relazioni con tre persone all'interno della stessa relazione in cui tutte le persone amano tutte le persone, e anche in questo caso è incredibile come il fatto che si aggiunga un elemento alla coppia cambia anche l'amore tra la coppia, nel senso che è come se fosse un sistema per cui qualsiasi parte lo cambia completamente. Quindi in termini generali, nel senso di dire lo stesso investimento emotivo, la stessa quantità di voglia di vedersi, di attrazione fisica, sicuramente sì. Però non parlerei di due amori uguali, ecco, questo no. Benissimo, direi che hai risposto più che suggestivamente a questa domanda. Allora vado avanti, sono un po', Sì, sì, vai tranquilla, spara. Vado, così a bruciapelo. È poliamore quando si frequentano più di una persona contemporaneamente? Come le distingui dalla scopa amicizia, ad esempio? La distinzione è stata che lo definisci, nel senso che il poliamore è come tutte le altre caratteristiche della nostra identità di genere, del nostro orientamento sessuale, comunque sta alla nostra autodeterminazione. Certo, si parla di poliamore quando tutte le persone coinvolte ne sono consapevoli, quindi se tutte le persone che si frequentano, anche senza aver definito una relazione, diciamo nei termini canonici di relazione significativa o a lunga durata, se tutte le persone coinvolte nelle frequentazioni sono consapevoli l'una dell'altra, certo che si può definire poliamore senza nessun tipo di problema, quindi direi sì. Benissimo. Altra domanda. Come ci si relaziona alla gelosia in una relazione poliamorosa? Forse un po' l'abbiamo anche toccato prima questo argomento. domanda è difficile. No, mi sa che qua l'avete presa bene. Allora, la gelosia porta delle dinamiche un po' particolari, perché si radica sull'idea che l'altra persona, in quanto nostra amata, in qualche modo, in qualche misura, possa essere un nostro possesso. C'è anche il discorso di possessività all'interno della gelosia. Per cui la prima cosa è comprendere questa cosa, cioè comprendere che l'altra persona potrebbe sentirsi minacciata e in diritto di dirci che non vuole che noi frequentiamo altre persone. La cosa importante è riuscire a creare innanzitutto il canale comunicativo, come dicevamo appunto prima, cioè trovare uno spazio in cui le due persone che stanno affrontando una crisi di gelosia si possano confrontare in maniera costruttiva. Poi la cosa importante da fare è stare attenti a quei tranelli che possono scattare con la gelosia, perché un'altra cosa che ci portiamo dietro nell'idea di quello che sono le relazioni romantiche è il fatto che se tu ami una persona non la farai mai soffrire, risponderai al 100% dei suoi bisogni. E tra l'altro, altra cosa che si aggiunge, i suoi bisogni te li devi immaginare, non è che te li dice lei. Quindi tutte queste cose si incastrano male con la gelosia, perché la gelosia racchiude queste cose. E quindi se io mi ritrovo in una relazione con un partner o una partner gelosa delle mie frequentazioni, devo riuscire a creare una comunicazione che faccia capire alla persona che ho di fronte che colgo la sua sofferenza, cercare di misurare con lei o lui se questa sofferenza è in una dimensione che può essere gestita, magari capire come posso aiutarlo ad aiutarla a gestirla, o se invece è proprio un momento in cui quella cosa è più forte di lui o di lei e quindi possiamo trovare insieme una soluzione. Ad esempio, faccio proprio un esempio pratico: se io dovessi iniziare una nuova relazione e il mio partner o la mia partner è molto gelosa, magari anziché pensare di andarmi a fare 2 settimane in montagna con l'altra frequentazione, potremmo trovare un accordo sul ridurla un weekend o magari ridurla una serata, cercando però sempre di monitorare il fatto che non diventi un ricatto psicologico, cioè che il nostro partner o la nostra partner non stia facendo un gioco di potere in cui dichiara gelosia per evitarci di vivere la nostra relazione. Per quello dico che alla fine il cuore e la chiave per far funzionare una relazione poliamorosa è la comunicazione, perché è la base fondante per fare sì che certi tranelli non vengano messi in atto, insomma. La comunicazione è sempre fondamentale in qualsiasi relazione, ma anche in amicizia. È una cosa che a volte viene anche un po' a mancare, secondo me, si ha sempre un po' paura di comunicare, no? Paura di essere criticati, eccetera. Poi abbiamo un'altra domanda che dice: come si inizia una relazione poliamorosa? Questa mi sembra proprio... Non è una domanda banale, perché il problema persone... Sì, infatti, cioè, non è una domanda banale, nel senso proprio bella grossa. È gigante, perché è difficilissimo anche solo capire qual è il nostro modo di comunicare che siamo poliamorosi o poliamorose, nel senso che voi immaginate, iniziate a frequentare qualcuno, quando è il momento giusto di dirlo? Cioè, quando è il momento giusto di dire che avete il marito o la moglie a casa? Nel senso, cioè, ci sono, e soprattutto che lo sanno che voi siete fuori con questa persona, cioè ci sono delle dinamiche che vanno valutate e non c'è una risposta giusta. Io conosco tante persone che decidono di mettere le mani avanti, perché purtroppo il poliamore subisce ancora, cioè le persone poliamorose subiscono ancora molte discriminazioni, cioè ci sono tantissimi pregiudizi del tipo non ti vuoi impegnare, vuoi solo scopare in giro, eccetera, eccetera. Quindi tantissime persone decidono di dirlo chiaramente, ancora prima magari del primo appuntamento, veramente, in modo che l'altra persona possa valutare se si sente di entrare in una cosa del genere oppure no. Benissimo, allora darei la parola a Giulia, che avrà da farti un'altra domanda. Sì. Ok. Sono arrivate veramente tante domande anche qua in radio, e c'è una domanda che chiede: quando si crea una rete di relazioni intorno ad una coppia esistente, la coppia centrale rimane oppure la rete di relazioni prevede l'uguaglianza tra le varie relazioni? La risposta è dipende, nel senso che dipende da tutte le persone coinvolte. Si parla di poliamore gerarchico quando c'è una relazione che in qualche modo viene decisa essere come primaria su tutte le altre. e invece da qui ci possono essere infinite gradazioni che vanno ad arrivare fino ad esempio all'anarchia relazionale, che è il suo estremo opposto, se vogliamo, nella sfera delle non monogamie etiche, in cui nessuna relazione può essere considerata primeggiante sulle altre. Spesso la coppia, soprattutto se una coppia monogama decide di aprirsi al poliamore, quello che succede è che spesso inizialmente abbia un po' una resistenza al perdere quel livello di priorità. Poi però dipende tantissimo dalla situazione, dalle altre relazioni che compaiono nella vita delle persone, eccetera. Comunque è tutto sulla base dell'accordo, nel senso che si decide proprio insieme e si concorda insieme. Ok, anche questo mi è di grande aiuto anche a me, oltre che a chi ci ha scritto, immagino. E l'ultima dalla radio, poi ridò la parola a Tecla. Ci chiedono quanto e come è legato il poliamore all'ambiente dei generi bianchi occidentali e borghesi. È una domanda questa un po'... Cattivella, sì. Cattivella sì, su cui in realtà come comunità milanese, soprattutto alcuni elementi della comunità milanese si sono interrogati abbastanza, perché di fatto, allora, tanta letteratura sul poliamore è stata accusata di essere bianca borghese, tante rappresentazioni delle pochissime, come diceva Tecla prima, che esistono, sono abbastanza bianco borghesi. In realtà esistono anche comunità che non appartengono a questo gruppo privilegiato di persone poliamorose, però effettivamente quella che è una riflessione che noi più volte abbiamo fatto è che comunque il poliamore, ma proprio per il tipo di, come dire, fatica emotiva, intellettuale che richiede, in qualche modo è qualcosa che devi avere tempo di farlo, proprio per dirla, come dire, in modo molto banale. Quindi effettivamente non mi stupisce che almeno a livello di comunicazione mediatica si senta più parlare del poliamore bianco borghese, perché comunque richiede tanto tempo, richiede tanto investimento, e una persona non deve avere, secondo me, problemi più pressanti. C'è un po' anche quello che dicevo prima relativo al fatto che magari una persona può anche avere inclinazioni poliamorose, ma può decidere in momenti di vita particolari di rimanere nella monogamia o addirittura sentirsi più sicura nella monogamia. Io mi immagino che in condizioni di disagio sociale crescente per X ragioni, fare una scelta di questo tipo, che comunque richiede una destrutturazione importante, tantissimo investimento, ma anche banalmente in termini di tempo. Cioè, pensate a tutti gli accordi di cui vi ho parlato finora, e quelle sono ore di conversazione, bisogna avere il tempo di farle. Detto ciò, io non sono però esperta di tutte le culture diverse esistenti di poliamore, quindi non vorrei dire delle cavolate, vi porto semplicemente la riflessione che noi abbiamo fatto su questa tematica e sul fatto che effettivamente anche a livello di letteratura quel poco che c'è è abbastanza bianco-borghese. Sì. Vabbè, comunque già una visione anche critica, comunque mi sembra, no? Che si mette in discussione. Sì, c'era un'ultima domanda che ti tenevo a fare di questa studentessa, perché è un po' hard, diciamo, quindi ci sta a farla. Allora, in una relazione poliamorosa, come viene concepita la condivisione del sesso? È un'intimità che si condivide tra le persone della stessa relazione poliamorosa? Ci sono tantissimi modi di vivere la sessualità nel poliamore, anche questi sottostanno a degli accordi. Ci sono delle persone che vivono proprio il concetto di poliamore come qualcosa più legato al gruppo, alla comunità, alla tribù, che non a singole relazioni affiancate, e che quindi è più facile che possano essere interessate a costruire relazioni anche in più di due persone, e a quel punto di norma esiste anche una sessualità di gruppo. Mentre ci sono tantissime persone poliamorose che comunque mantengono la coppia, semplicemente ci sono più coppie che si intersecano tra di loro, e in questo caso il discorso sulla sessualità viene comunque fatto anche solo banalmente per la gestione di contraccezione e protezione da malattie sessualmente trasmissibili, perché voi comunque immaginate se una persona ha relazioni sessuali con, non so, 3, 4, 5 persone, comunque bisogna decidere come proteggere tutta la molecola, e questo è un discorso che viene spesso fatto. C'è molta discussione anche su quale possa essere lo strumento giusto per tutelare tutti. Mentre per quanto riguarda proprio l'interazione sessuale tra le varie persone, anche lì sta molto alle persone, agli accordi, alle decisioni prese all'interno della specifica relazione. Non c'è un modo giusto, un modo sbagliato. Benissimo. Io, ragazze, direi che o mettiamo un'altra canzone, oppure volevo chiedere a Giulia di approfondire un po' l'aspetto, cioè di spiegarci che cos'è il poliamore nella comunità e nella pratica clinica, che era un'altra cosa molto interessante da... Magari prima di rispondere, Giulia, potremmo sì mandare una canzone. Una canzone? Sì, così okay rielaboriamo ancora. Perché qua c'è un fiume di domande. Sì. Va benissimo. Ok, allora mettiamoci in muto. E la prossima okay chanson c'è Fell in Love with a Girl dei White Stripes. Cheating now. Ok, eccoci, ci risiamo. Okay. È durata pochissimo questa canzone, io purtroppo non ho sentito nulla perché qua siamo con mille connessioni, c'è una rete invisibile intorno a noi in questa puntata, bellissimo. Siamo connesse anche invisibilmente, cioè è incredibile, senza avere i corpi presenti. Vabbè, sta funzionando, dai. Sta funzionando bene, cioè io non vi vedo ma riesco a fare dibattiti con voi, cioè è stupendo. Cioè... Noi vi vediamo. Vabbè, ma l'importante è la voce. Vabbè, allora Giulia, io direi che adesso andiamo un po' ad approfondire questo argomento che è proprio il tuo campo, no? Sì. Quindi, prego. Vado? Ok. Vada. Allora, in realtà è molto molto interessante incrociare la pratica clinica al poliamore perché anche gli psicologi e le psicologhe comunque sono cresciuti e cresciute nella nostra cultura e quindi volenti o nolenti anche noi professionisti interiorizziamo quelle che sono le rappresentazioni della cultura, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato con queste diciamo norme sociali interiorizzate, per cui spesso quello che succede è che nelle comunità poliamorose ci sia una sofferenza rispetto al fatto che è molto difficile trovare terapeuti o terapeuti in grado di superare i pregiudizi nei confronti del poliamore. Forse il più grande che spessissimo si sente dire è hai dei problemi relazionali perché poliamore significa che non ti sai impegnare in una relazione significativa. E questo secondo me origina dal fatto che abbiamo una rappresentazione talmente radicata di che cos'è una relazione amorosa, quindi due persone che si conoscono, salgono sulla loro scala mobile relazionale, quindi passano dalla frequentazione alla relazione più seria, si dichiarano una relazione ufficiale, quindi monogama, poi arrivano a un certo punto matrimonio, figli e così via, insomma la storia che tutte noi sappiamo e abbiamo conosciuto. Per cui nel momento in cui arriva una persona che dice, dichiara al terapeuta o alla terapeuta che ha deciso di vivere la propria vita relazionale in modo diverso, il terapeuta o la terapeuta del caso si irrigidisce un po' e cerca di capire se ci sono delle cause altre di disagio che portano a questa determinata scelta. E questo non è perché i miei colleghi e colleghe sono persone non preparate, non capaci, assolutamente, è semplicemente perché anche noi professionisti dobbiamo stare molto molto attenti a non cadere nei pregiudizi con cui siamo stati cresciuti e cresciute. Tra l'altro la psicologia, soprattutto la psicologia clinica, comunque di per sé, per poter funzionare, ha bisogno di tracciare una linea tra le cose che noi possiamo considerare normali e le cose che invece possiamo considerare patologiche. Il problema è che questa linea è influenzata dalla cultura, cioè delle cose che un tempo sembravano assolutamente malattie, oggi sappiamo che sono assolutamente normali, delle altre cose probabilmente dovranno subire lo stesso processo. Pensiamo, è passato da poco il 17 maggio, 30 anni fa l'OMS ha tolto l'omosessualità dalle malattie mentali. Questo significa che fino a 30 anni fa chi era omosessuale veniva considerato malato. Questa cosa ha, tra l'altro, ha ancora degli effetti, nel senso che ancora oggi vengono fatte delle ricerche tra i professionisti della pratica clinica che dimostrano che comunque quel pregiudizio non è che ci abbia abbandonato del tutto. Quindi secondo me è importantissimo tenere sempre in considerazione di capire qual è la posizione di un terapeuta o di una terapeuta quando li si sceglie, se si sta cercando supporto, per capire se si potrebbe subire questa discriminazione. In realtà la comunità poliamorosa ha creato delle liste di terapeuti e terapeute polifriendly, le chiamiamo, per poter proprio avere una sorta di scrematura iniziale, cercare di andare da delle persone che non ci faranno sentire e non faranno sentire la persona poliamorosa inadeguata solo per il fatto che ha scelto uno stile relazionale di quel tipo. Personalmente io lo sono diventata, nel senso che sono stata un po' la figura di riferimento da questo punto di vista della comunità milanese da quando ho iniziato a farne parte, e effettivamente mi è capitato anche personalmente di avere di trattare persone poliamorose, di dare supporto a persone poliamorose. Il bagaglio di conoscenze che ho acquisito sulla tematica mi permette di tenere sotto controllo la possibilità di mettere in atto determinati tipi di pregiudizio. Questo non significa, e anche questo è importante dirlo, che se io ho un determinato tipo di caratteristica che possa essere poliamorosa, appartenere al gruppo LGBT, piuttosto che devo cercarmi un terapeuta che come persona sia poliamoroso o poliamorosa, piuttosto che ad esempio omosessuale, bisessuale, ok, questo assolutamente no. Però che sia un professionista o una professionista che comunque si è avvicinato allo studio di determinate tematiche, perché questo protegge un pochettino dal rischio di discriminazione. Benissimo, direi che sei stata più che precisa, cioè sei stata super, Giulia. Grazie. Quindi grazie. Io al momento non ho domande, non so se le ragazze vogliono chiederti ancora qualcosa prima di salutarci. Ma penso che le domande siano infinite, cioè tipo vengono in realtà in mente... io ne avrei una, però non lo so, volevo dare la parola a voi. No, beh, Tecla, se tu ce l'hai, fai pure, perché, no, dicevo questo perché non vorremmo tenere in ostaggio Giulia, che comunque ci sta dedicando un sacco di tempo, però sappiamo anche che il tempo è prezioso e che si deve anche condividere con tutte le persone con cui ci piace condividerlo. Sì, in realtà la mia è una piccola domanda. Quello che volevo chiederti è se ci sono coppie in crisi che poi si avvicinano al poliamore. Allora, sì. Nel senso che, sì. Quindi in realtà sembra una domanda piccola, ma apri un mondo incredibile. Davvero. Se posso qualche minuto me lo prendo per risponderti, certo. Perché allora sì, succede, nel senso che il poliamore spesso viene preso come una possibile risposta per risolvere delle tensioni all'interno della relazione. È un po' rischioso approcciarsi al poliamore così, perché comunque è uno stile relazionale che, soprattutto se si parte appunto da una relazione monogama, metterà in discussione tutto tutti gli equilibri della relazione, per cui già bisogna essere un po' preparati al terremoto che deriva dall'approcciarsi al poliamore. Se c'è una crisi sottostante, il problema è che il poliamore non può essere la soluzione. Poi alcune volte avere, proprio perché il poliamore ci spinge a fare delle riflessioni importanti su cosa siamo come persone, su come viviamo le relazioni, su cosa ci interessa all'interno delle relazioni, su cosa ci serve all'interno delle relazioni, talvolta può essere effettivamente un modo per riflettere di più anche sulla coppia iniziale che si approccia al poliamore, e quindi può effettivamente portare magari ad un avvicinamento ulteriore, però può succedere anche il contrario. È difficile a dirsi. Il poliamore può essere scelto come una risposta da persone che si sono rese conto che la monogamia non è una risposta, e da clinica mi sento di dire che è una scelta di fatto adattiva, secondo me, cioè che fa bene alle persone. Se una persona non riesce a costruire relazioni monogame significative perché per le sue caratteristiche di personalità fa fatica a impegnarsi, e qui sembra che riprenda il pregiudizio di prima, però è in un modo ragionato: se una persona fa fatica ad impegnarsi in modo totalizzante all'interno di una relazione monogama, perché comunque quella è un po' l'aspettativa nella monogamia, potrebbe trovare nel poliamore una risposta per avere relazioni soddisfacenti senza dover affrontare quel tipo di disagio. Certo è che bisogna vedere come stanno le altre persone, per cui magari io riesco a trovare una risposta nel poliamore perché mi fa sentire meglio personalmente, ma se poi ho comunque dei disagi a livello relazionale non è detto che il poliamore li risolva. Esatto. Potresti semplicemente trasformarli da disagi nella monogamia a disagi nel poliamore e cambia poco. Benissimo, io direi che Giulia possiamo anche concludere qua l'intervento, se non ci sono appunto, se non vogliamo fare altre mille domande, ma abbiamo altre persone che dovranno seguire alla puntata. E ti ringrazio tantissimo, spero che di poterti risentire, magari ti ricontatteremo. Grazie mille. E riaffronteremo questo, oppure io so che tu ti occupi anche di altre cose, quindi non solo di poliamore. Sì, sì, io sono, cioè mi occupo sostanzialmente di psicologia con un taglio legato alla promozione delle diversità e alla riduzione dei pregiudizi, quindi di fatto prende dentro tantissimi argomenti diversi. Sicuramente sono molto attenta e appassionata di questioni di genere e tematiche LGBT nel senso più ampio del termine, per cui sì, di queste quindi cose verrai mi occupo. Sicuramente richiamata. Assolutamente sì. Ricorreremo a te più avanti. Anche magari personalmente. Esatto. Quando volete mi trovate senza problema, scrivetemi, mi fa, no davvero grazie mille per l'invito, mi ha fatto molto molto piacere conoscere il progetto, che mi sembra veramente bellissimo, adesso non grazie. Me lo faccio sfuggire. Ma dai, grazie mille. Grazie a te, perché ci hai sicuramente illuminato un pochettino su questa tematica che rimane sempre un po' nebulosa, oggi è più luminosa sicuramente. Ti ringrazio, grazie davvero. Il tuo intervento, Giulia, tipo muezzin sul minareto, cioè da far sentire a tutti. Lo diffonderemo, podcast condivisi a manetta. Grandissimo, super. Va bene, allora grazie ancora anche grazie, qui Giulia. Dalla radio, e a prestissimo. Presto, un abbraccio, grazie. Ciao Tecla. Ciao ragazze. Vado con la prossima canzone. Vai, Lady J. E ora un pochino del reggaeton con Karol G e Nicki Minaj. Mia mamma adesso si metterà a ballare, sicuro. Io pure. Che pasa contigo? Dimmelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, porque mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con la otra está pidiendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente. Queen. Beh, il reggaeton ci piace. Jessica sul pezzo. Avere le DJ in radio è tutta un'altra musica. È un'emozione. Musica. Ragazzi, come si balla su queste seggiole girevoli che ve lo spiego. Non si balla da nessuna parte così. E io mi sono un attimo persa. Oddio. E dobbiamo continuare la scaletta che abbiamo preparato. Quindi direi che possiamo mandare anche... Cioè bisogna dire che purtroppo Charlie, che è il prossimo intervento, non è potuta essere con noi qui in diretta radio perché per motivi di lavoro, e quindi ha preparato per noi una serie di audio che possiamo ascoltare. Li interromperemo più o meno a metà, così da fare una piccola pausa, e adesso possiamo ascoltarla. Ecco a voi Charlie. Ciao a tutte e tutti, io sono Carlotta e faccio parte del collettivo femminista Degenerazione. E ho letto le domande che avete posto, mi sono arrivate delle domande appunto riguardo il poliamore. Io riporto la mia esperienza, anche perché credo che parlare di poliamore significa parlare di tante situazioni diverse e tanti vissuti differenti, e quindi vi porto la mia esperienza e qualche fonte da cui poi potete ricavare qualche informazione in più. Allora, Io non mi sono mai piaciute le categorie, per cui anche categorizzarmi come poliamorosa non mi fa impazzire. Inoltre, mi piace il termine poliamore nel momento in cui comprende tanti modi di stare insieme. E quindi diciamo che mi è un po' difficile determinare specifiche caratteristiche. Quindi partendo un po' da questo presupposto, per cui io vedo il poliamore come forme diverse di amore rispetto a quello monogamo, che può voler dire tante cose, credo che dipenda appunto dalle persone coinvolte. Allora, per quanto riguarda la gelosia, che mi sembra un tema abbastanza ricorrente nelle domande, Allora, la gelosia è un problema per tutti, è un problema per le coppie monogame come è un problema per le coppie poliamorose. Viene gestita in modi differenti. Allora, di solito le persone poliamorose sono abituate a lavorare su questo aspetto più di quelle monogame, e perché quelle monogame si nascondono, mettiamola così, di solito, poi non è detto, non tutte, però si nascondono un po' dietro la sicurezza di avere, diciamo, cioè la sicurezza del fatto che l'altra persona non farà nulla, e quindi in realtà sono anche meno abituate ad affrontare questo problema, mentre invece le persone coinvolte in rapporti poliamorosi di solito sono, come dire, più familiari a questo argomento e quindi trovano degli escamotage che possono essere diversi. Di sicuro creare delle regole è qualcosa che aiuta in questo processo. Ci sono anche delle relazioni che vengono chiamate anarchie relazionali, per cui il fondamento di base è proprio non avere alcun tipo di come dire, di limite. Mentre invece le coppie poliamorose tendono a creare delle regole, no? Per questo alla domanda se si può parlare di coppia o meno dipende da chi sono le persone coinvolte in questi rapporti e che struttura hanno deciso di darsi. Ci sono delle coppie poliamorose che partono da una dimensione a due, per cui magari c'è una coppia che è partita già come monogama, poi decide di aprirsi, e allora molto probabilmente lì avremo, ci sarà, diciamo, ci saranno delle regole per preservare quella coppia che magari viene dichiarata coppia primaria, e allora le due persone coinvolte troveranno dei modi tra di loro per darsi delle regole su chi vedere, con che modalità, quanto spazio dare ad altri, che tipo di rapporti si possono instaurare con gli altri e le altre, se solo a livello sessuale o se con un coinvolgimento emotivo. Oppure può anche succedere che non ci sia una coppia primaria, che tutte le persone coinvolte decidano di avere, diciamo, dei rapporti allo stesso livello, paritari, e allora questo è un altro discorso. Ci sono comunque delle regole, soprattutto ecco, le coppie poliamorose tendenzialmente sono molto sensibili alla questione della protezione, perché chiaramente avendo tanti rapporti. Poi parlo ora della mia esperienza personale. Per quanto mi riguarda, io insomma ho sempre cercato di rinchiudermi in relazioni monogame perché mi davano più sicurezza sotto certi punti di vista, ad esempio quelli della gelosia. D'altra parte però ho sempre sofferto molto, perché sono sempre stata una persona che facilmente si fa affascinare dalle altre persone e facilmente mi innamoro, facilmente mi apro agli altri, e ho notato questa tendenza a ho iniziato a sentirmi oppressa all'interno di queste relazioni, ho iniziato a pormi delle domande e sono arrivata al punto di rendermi conto di aver bisogno di avere accanto a me una persona che in qualche modo potesse accogliere questa mia apertura verso il mondo, e accogliere nel senso di non accusare, di non accusarmi, di non colpevolizzarmi per questo, ma anzi di lasciare un dialogo aperto rispetto alla possibilità di avere altri rapporti. Ora io sto con una ragazza e diciamo che con lei abbiamo un rapporto esclusivo da certi punti di vista, ma con un canale sempre aperto e sempre in evoluzione rispetto all'apertura o meno ad altri rapporti. Abbiamo avuto per ora solo delle occasioni con degli altri uomini e per ora sono semplicemente stati incontri, diciamo, principalmente anche di intesa, ovviamente affettiva e personale, ma principalmente sessuale, cioè è stata una condivisione principalmente sessuale, o comunque di sicuro riconosciamo io e lei di avere un rapporto privilegiato, ecco, rispetto a qualsiasi altro potremmo avere. Detto ciò, non mi viene da dichiararci coppia monogama, perché entrambe abbiamo questa tendenza ad aprirci, per cui metterci troppi paletti da questo punto di vista sarebbe repressivo nei confronti di entrambe. È vero anche che non c'è un'apertura completa, ma più per una questione di... è anche difficile avere più relazioni, è difficile anche non scadere nel consumismo sessuale, quindi è difficile da una parte avere tante relazioni perché ci vuole tempo da dedicare. Il rischio del consumismo sessuale è un po' quello di, appunto, non darsi minimamente un freno. Appena si sente un minimo di pulsione, allora si fa quello che si vuole, ecco. Che per l'amore di Dio ovviamente non è assolutamente sbagliato. È vero che nel momento in cui instauri dei rapporti ci sono altre persone, per cui la tua azione può avere delle ricadute anche sugli altri e sui rapporti. E quindi, insomma, sono sicuramente situazioni da gestire e delicate. Non è detto che siano più difficili dei rapporti monogami, sono semplicemente diversi. Per concludere, allora, per avere altre informazioni, allora, ci sono svariati gruppi su Facebook di confronto, si chiama, uno è Policome Milano, e organizzano anche aperitivi a Milano a tema, per affrontare pure tematiche condivise all'interno del mondo poliamoroso. E un altro è un libro invece che si chiama La zoccola etica, e guida pratica al poliamore, ed è un libro molto prezioso, penso anche per le coppie monogame, che tratta diverse tematiche, dalla gelosia, la rabbia, al safe sex, alla relazione, diciamo, la relazione tra genitori poliamorosi e figli, come affrontare il tema con i tuoi figli, e anche sulle questioni di legislazione. E niente, spero di aver portato un contributo interessante, e a presto, grazie. Ringraziamo la Charlie, è stato molto interessante, poi lei è estremamente chiara e a me piace molto come si esprime, questa anche tranquillità che trasmette, anche se sta parlando di cose non proprio facili. È molto personale. Esatto, anche quello. Quindi grazie mille per la tua condivisione, Charlie, se ci stai ascoltando, e ti mandiamo un bacione. E direi che possiamo annunciare la prossima canzone. È, no, diciamo, un particolare e utile per il prossimo intervento, perché questa canzone l'ha trovata Andrea, che è stata prima la nostra ascoltatrice e poi ha deciso di partecipare insieme a noi all'organizzazione delle varie puntate. E per oggi, per il tema del poliamore, ha trovato una canzone che è interessante da questo punto di vista. È in inglese, quindi poi la chiameremo così che possa farci un po' una traduzione, riassunto in italiano. E quindi niente, buon ascolto. No, dobbiamo un attimo correggere questa cosa, la manderemo dopo questa canzone, okay, perché stiamo avendo un piccolo problema tecnico, quindi okay, nel frattempo ne mandiamo un'altra e appena possibile vi manderemo questa fantastica canzone. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Me siento en el aire. want to know. How it will be. Me and her. Love each other. Sister lovers, you heard about water brothers. Maybe in time, a whole lot of others. So you see, what we can do is to try something new. If you're crazy. Thank you. Rieccoci qui, sono stati 5 minuti e passa intensi e anche un po' difficili forse. Pronto? Ciao Andrea! Ciao a tutti! Ciao Andrea, allora, benvenuta! Noi ti grazie. Abbiamo chiamata subito dopo la canzone che abbiamo lasciato andare, così ce ne parli direttamente tu e noi ti lasciamo proprio lo scettro della parola. Esatto, okay. Perché questa canzone? Allora, ho scelto questa canzone perché è interessante la sua storia. Ho scoperto che questa canzone apre l'articolo che venne pubblicato negli anni 90 sulla Green Egg Magazine, che si chiama A Bouquet of Lovers, ed è praticamente il primo articolo pubblicato dove viene coniata la parola poliamore, o meglio poliamoroso. E questa parola, appunto, poliamoroso, che la tira fuori questa donna incredibile, una sacerdotessa a dire il vero, che si chiama Diana Moore, ed è meglio chiamata in realtà come Morning Glory del Revenant. E appunto lei fu una delle prime sostenitrici del poliamore. Apre questo articolo con il testo di questa canzone, e io l'ho trovato molto interessante, più che altro perché questa canzone fu scritta nel 68, e cosa succede nel 67 invece? Succedono un po' di cose interessanti per quello che è appunto il poliamore e la sua storia. Prima di tutto viene pubblicato il vero libro che conia la parola poliamore, che è fatto da un francese tra la fine del Settecento, che si chiama Charles Fourier, e appunto lui descrive in questa società utopistica che si chiama Armonia il superamento di un modello familiare monogamico a favore di un rapporto amoroso multiplo. E oltre a questo, cosa succede nel 67? C'è la Summer of Love, nel quale appunto David Crosby, che è l'autore di questa canzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Triad, lui appunto partecipa con altri artisti sostenitori dell'amore libero, appunto con diverse canzoni, e questa fu poi anche rifatta lo stesso anno da un altro gruppo, sempre che partecipava alla Summer of Love, che si chiamano i Jefferson Airplane, e lo fanno in versione femminile, cioè la canzone fu girata da un punto di vista femminile in modo tale che questo avesse un fosse l'emblema del poliamore no gender, non so come se mi faccio capire. Sì, e la tematica, effettivamente, poi la traduzione di questa canzone, che adesso ve la faccio, vi fa capire quanto è bello quello che dice. E vado allora, la traduco. Dice: vuoi sapere come potrebbe essere io e lei, o tu ed io, entrambe sedete qui, lunghi capelli fluenti, gli occhi vividi, le vostre menti in continua espansione. Mi dite, che possiamo fare ora che tutte e due ti amiamo? Vi amo entrambe anch'io, ma davvero non vedo perché non potremmo andare avanti in tre. Siete preoccupate, anche a disagio. Nessuno ha mai avuto nella vostra breve vita infantile una cosa come accade a voi. Lo spettro di vostra madre vi sta alle spalle, ha un viso glaciale, anche più gelido ancora. Vi dice che non potete fare ciò, è contro ogni regola appresa a scuola, ma io non capisco perché non potremmo continuare in tre. Sai che ci amiamo l'un l'altra, è chiaro, c'è una sola risposta che mi viene. Sorelle, amanti, qualcuno tra voi conoscerà la fratellanza nell'acqua, e nel tempo ve ne saranno altre di fratellanze. Così capite ciò che possiamo fare, provare qualcosa di nuovo, solo se sarete folli anche voi, ma veramente non capisco perché potremmo continuare in tre. Questa è la traduzione della canzone. E appunto secondo me identifica proprio quello che è stata la storia del poliamore e di quanto sia stato anche magari difficile essere accettati ancora oggi, ne abbiamo anche sentito, non c'è ancora c'è un'apertura ma non un reale riconoscimento magari. E niente, io volevo solo darvi questo piccolo contributo su dandomi una piccola curiosità, ecco. È molto bello perché, vabbè, una canzone non è scontato di solito, però è anche molto poetica, quindi dà proprio una dimensione, non lo so, un po' impalpabile e rende, non lo so, devo dire, potrebbe essere un inno al poliamore, io che magari non sono proprio la persona più per la quale, però devo dire che dopo anche questa traduzione è un po' più, non lo so, ti avvicina. È più chiaro. Ho voglia di essere poliamorosa adesso. No, ma è molto bello perché poi appunto anche la questione di averla rifatta sempre, comunque, esatto. Lui con la fanno cantare, i Jefferson Airplane la fanno cantare a Grace Slick, e appunto rigirandola al femminile, che è molto interessante anche questa azione che viene fatta, insomma, il fatto che già in quegli anni si vuole subito sottolineare il no gender di questo tipo di questa pratica, non so come dire. E anche se è vero, il poliamore non è non si accosta all'amore libero alla fine, però possiamo ricordare, cioè possiamo ritornare alle radici di un'apertura al sentimento, a un'apertura alla fruizione di un sentimento, se volete, non più impostato da regole, ma assolutamente libero di essere libero a se stesso, no? E di conseguenza appunto il 67 appunto, e poi gli anni dalla rivoluzione sessuale eccetera, hanno portato ad avere più consapevolezza anche di questo, ecco. E quindi mi sembrava carino riportare tutta questa data, che l'ho trovata curiosa, perché appunto anche con lei che ha coniato appunto questo termine poliamore, cioè ripeto, di amour, lei aveva una relazione, lei dice: io ho sempre voluto una relazione, un matrimonio aperto, e infatti apre subito la sua relazione con il suo compagno, che si chiamava Zell, che era anche il suo socio in affari, e con lui aveva aperto il magazine, e loro addirittura inizialmente erano tre, poi e la loro relazione dura 10 anni, sì, circa 10 anni, e poi loro si aprono a nuovi amori, fino ad avere una famiglia di 6 persone e vivere in 2 case. Quindi è molto bello il fatto che lei ci inviti ad ascoltare questa canzone proprio quando si sta parlando di come fare ad avere una buona relazione poliamorosa, ecco. Perché è questo che scrive nel suo articolo. Allora, speriamo che questa piccola anche curiosità tramite una canzone che hai lanciato tu possa far incuriosire tutte quante le persone che ci stanno ascoltando, così magari approfondiscono un po' l'argomento anche passando attraverso la musica, e potranno scoprire magari un mondo nuovo, e già il fatto di aprirsi a qualcosa di diverso, anche il solo accostarsi per capire cosa si ha di fronte, secondo me è già una bella prova di cambiamento, ecco. Esatto. Quindi, esatto. Anche come spunto più artistico, musicale, direi che è molto interessante. Speriamo che incuriosisca tutti quanti e tutti. Bene. Quanti. Quanti. Bene, bene. Grazie mille, Andrea. Allora, grazie a voi, ragazze. E ci sentiremo prestissimo, sempre su queste frequenze. Va bene. Ciao, Andrea. Ciao a tutti. Un bacio. Ciao. Un bacio. Ciao. Oh, Quero mais e melhores frutos, com água sobre os pés, sobre a cabeça céus azuis. Mais e melhores testes, mais e melhores cus. Só de estar na busca eu tô além do que eu supus. Pois ser um ser humano melhor, com brilho no olhar. Te olho, você me olha, se molha, se molha. Vou a pé, vou na fé, no café. Mas meu bem, quando é que você vem me dar aquele chá? Tem que vem de marcha ré, descendo deixa assunto. Lugar melhor no mundo eu não conheço outro. Platônico e na prática é ginástica. Atômico, arrepio, os cabelinhos é tipo estática. Você se toca, o beat é o papatinho da cone. Você se toca quando ouvi minha voz assim no fone. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. Vai ter, eu vou te esperar. E quando voltar, eu volto aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu volto aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele. Só pulse sob a minha posse. A língua rasga, rasga, cê devolve, engasga e tosse. 9:30 a gente se diverte, inverte quando se move. Se 9 fosse 6:30 fosse 9. Seu rosto no meu peito, eu cheiro no cangote. Gosto do seu jeito, seu gosto, meu sujeito de sorte. Que animal, só no mel, várias luas de vários sóis no céu. E nós a sós aqui, swell. Se achegue no aconchego, amor. Só chega no chamego, amor. Amor cego igual no cego, amor. Eu capto o seu sinal. Me pergunta se eu quero mais. Quero sinal. Gata, te ouço, miar vários miaus e ais. Levito quando visito lugares que são tão reais. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. Vai ter, eu vou te esperar. E quando voltar, eu volto aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu volto aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu volto aqui pra você me dar aquele chave. Eu volto aqui pra você me dar aquele. Rieccoci qui. Dopo questo stile voceo un po' brasileiro. Boa noite. Boa noite. Beh, molto, molto bello il portoghese. A me piace molto. Poco di saudade. È arrivato il momento super cazzo alla stupidera qui in radio. Siamo molto liete e contente. Sono di scattate le 20 e 24, Gioia, il nostro orario per sbabbionare un pochettino. Oh, finalmente. No, non perché finalmente che non ci è piaciuta la puntata. Finalmente è stata... che sbabbioniamo. Esatto. No, a me è piaciuta particolarmente. Sono esausta perché sono stata concentrata tutto il tempo. Proprio perché la tematica, secondo me, merita molto. E io ancora lo trovo un po'... cioè, non assurdo, ma allucinante come si possa riuscire ad avere più relazioni, insomma, una vita poliamorosa. Allora, io personalmente riesco a fatica ad avere una relazione monogama. Il poliamore per me è un po'... non so voi. No, ma a me la cosa che mi ha sempre sconcertato un pochettino è il tempo. Ma, sì. Cioè, nella nostra vita, che siamo così frenetici, a fatica riusciamo a mettere dentro l'attenzione e la cura, anche a livello di tempo, per una persona, ma come ce ne aggiungi altre due o tre? Cioè, che fatica solo il pensiero. Vabbè, però noi anche parliamo anche come persone che, devo dire, che conoscendovi, posso anche parlare per voi, se dico che siamo cresciute comunque in un contesto in cui la monogamia, chiaramente, o comunque una relazione esclusiva, è qualcosa che difficilmente abbiamo mai davvero profondamente messo in discussione, o meglio, cioè siamo cresciute con l'idea della monogamia e basta. Ma io no, in realtà personalmente un po' l'ho messa in discussione, mi sono messa in discussione, solo che non è facile, io rimango del... dell'idea, cioè l'assunto di base per me, che dovrebbe essere in qualsiasi tipo di relazione, cioè parti con i tuoi genitori, con i tuoi amici, sorelle, fratelli, compagni, compagne, amiche, amici, insomma tutto, la condivisione. Cioè se vuoi avere una relazione con me, di qualunque tipo sia, la condivisione di determinati emozioni, sentimenti, tempo, cura, attenzioni è fondamentale, soprattutto anche dei pensieri. Così secondo me è possibile, certo, costruire. No, poi, no, certo. Però appunto dicevo, è un qualcosa che non è che fai da subito, cioè non è che da subito tu hai in testa che puoi amare chi vuoi, cioè proprio chi vuoi, al di là appunto del genere, come abbiamo affrontato nelle altre puntate, ma anche chi, nel senso di tutte le persone che vuoi. Cioè è difficile, non ci viene insegnato da subito. E quindi iniziare a porsi queste domande è sicuramente utile, perché non è detto, appunto, come già anche lo diceva Giulia nel suo intervento, è difficile anche arrivare a maturare la consapevolezza che magari ci serve qualcos'altro che non sia la monogamia. E quindi rimaniamo anche qui ingabbiati e ingabbiate, e può essere come può non essere, ovviamente. E quindi nel momento in cui ci sentiamo ingabbiati e ingabbiate, è giusto anche porsi la domanda e rifletterci sopra, o no? Sì, e secondo me parte anche molto dall'individuo, nel senso, se una persona si mette in discussione con se stessa, quindi si pone determinate domande come individuo, prima ancora certo, dell'avere delle relazioni, è ancora meglio, e così veramente puoi aprirti a qualsiasi cosa, essere, non dico libero al 100%, perché ci vuole un percorso veramente lungo. Però quello è il primo passo, perché se no, cioè se non sei disposto a metterti in discussione tu... Certo, quindi è la consapevolezza, esatto, di sé, delle mamma proprie mia, emozioni e di quello che si vuole. Come siamo profonde. Ovviamente. Anche con la voce. Ovviamente. Allora, rispondiamo all'ultima domanda che ci è arrivata in questo istante via chat. Ci chiedono, ci fanno delle domande e dimostrano quindi di non aver seguito la nostra trasmissione. E... facciamo anche i nomi e cognomi qui, attenzione. No, beh, no. Allora possiamo fare il nome. Se no poi non ci scriva più nessuno. È uno dei tanti piri che si aggira in questo luogo e verrà enormemente mazzolato per la sua disattenzione. E ci minaccia pure, wow! Ma tanto ormai noi sappiamo come riattivare tutto qua. Vabbè, basta, stiamo sbabbionando, sì. Quindi la domanda non c'era. Quale domanda? No, non l'ho letta, no, perché lui chiedeva, chiedeva se ci sono delle gerarchie, e in effetti è stato abbastanza risposto anche a questo, non proprio questa domanda specifica è stata fatta, però parlava di, dipende tutto dagli accordi che si prendono man mano parlando, confrontandosi tra gli individui che entrano appunto in relazione, quindi è una cosa mm-hmm. che si decide in che modo scardinare, in che modo regolare, ecco, io questo ho capito bene? Sì, penso di sì, poi ovviamente il piano di comunicazione affinché una cosa del genere avvenga presuppone che le persone coinvolte siano persone alla pari, nel senso che per fare una comunicazione del genere bisogna che tutti siano sullo stesso piano, poi la relazione magari si può instaurare in un certo modo, e per esempio si parlava delle coppie poliamorose, che cioè, insomma, una coppia che è aperta ad avere relazioni anche con altre persone. In quel caso magari si può anche interpretare in questo modo la domanda sulla gerarchia. Sì. Comunque siete delle alunne meravigliose, vorrei essere insegnante solo per avervi come alunne. Wow, abbiamo preso appunti. E è comunque tutto qui per fortuna cervello. Degli ascoltatori che non seguono la puntata in diretta... si fanno dei bellissimi podcast e nel caso non lo sapesse, i podcast, nel caso in cui questo ascoltatore non lo sapesse. Comunque direi che sono le 20:31, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata. Noi siamo le ribelli e in quanto tali non iniziamo mai puntuali, ma finalmente riusciamo a finire puntuali. Perché quindi... Gioia deve andare a mangiare. No, perché evidentemente stiamo sbambionando troppo e ci sta tutto. C'è un calo di zuccheri evidente. Esatto, e dobbiamo sbronzarci stasera nel programma, non nella scaletta, ma nei nostri programmi di vita. E quindi direi, mandiamo l'ultima canzone, ci salutiamo e addio. No, rimaniamo ancora 5 minuti. Giulia! Dai, è bellissimo. Senza adesso... dire niente, ho perso l'ispirazione. Ma no, perché in realtà vedo che continuano a scriverci cose assolutamente assurde. Una, hanno fatto i super complimenti a Lady J per la sua voce e direi sì, bellissima voce. Certo, meravigliosa. Sì, sì, sì. Sì, vedrai, sì, adesso grazie. Arriveranno tutti i commenti. Mia mamma per prima, sì, finalmente Lady J. Sì, sì, sì, hai una voce molto radiofonica. Molte grazie, se sapessi anche cosa dire, sì, sarebbe ma bello. Non devi sapere, devi improvvisare. Vedi, guarda come siamo bravi e Gioia. Dai, mettiamo questa canzone. Mettiamo questa canzone di Baker Matt, Baby. Baby! Ciao a tutti, tutte, tutti, wow! Scherzone, siamo ancora qua. No, volevamo soltanto salutarvi. Sbagliato tutto. Va bene, tanto siamo fuse. No, era bellissimo fuse il saluto di Lady J in realtà. Solo che esauriti J, esauriti J. Ma non è vero, simpatica J, simpatica J. E volevamo ricordarvi ancora una volta tutti i nostri canali, Instagram, Radio Zammi Sud, Telegram, il canale Radio ZAM e la chat chiocciola Radio Zam trattino basso chat. E Facebook. E Facebook. Radio ZAM. E non smetteremo mai di stressarvi l'anima con tutti i nostri appuntamenti e programmi. E vi volevo anche ricordare che invece abbiamo la nostra radio compagna, gemella, amica Radio Lotto tutto l'anno, che va in onda il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi seguite anche le nostre compagne di Non Una Di Meno. E ci vediamo, no, ci vediamo, no, ci sentiamo, ci ascoltate, esatto, giovedì prossimo. E potrete avere la scaletta, insomma, del prossimo programma se rimanete sintonizzati su questi canali. E siateci. Ciao ciao. Ciao.